Imparo un altro giorno mentre gli ordino l'ennesima riga riassunta in tema logico. Sei il classico comico della scena, il rapper che si allena a far venire il vomito. Mi vivo l'underground dallo storyboard, ma ieri spinning nel capire il tuo lessico. Ti atteggi troppo dietro al monitor che ormai vieni usato come cane domestico. Patetico, scompari, sei illecito. Trasferimento di informazioni nel nervo ottico. L'esame di due spade che traforano con le lame affilate le arterie del tuo stomaco. Butto giù un altro albero genealogico, rimani nel tuo involucro. Al primo giro ti sopprimo di continuo, mentre adesso comprimo rime che inserisco in ordine cronologico. La verità si nasconde in un sarcofago, il tempo è una katana usata come terzo incomodo. La paura sbrana in strada, mentre la tesa è la puttana di una lama che ti penetra l'esofago. Attento, esplodi con un altro tasso alcolico, un altro essere umano in preda ad un infarto cronico. Utilizza l'antidoto mentre il cervello si strizza e si lobotomizza nel tubo catodico. Il vostro DNA contaminato dal cianuro collassa la sinapsi con cellule di mercurio. Il tempo continua a stringere, conferma la scala Richter 10 di magnitudo. Qua tutto al contrario, tutto è critico. Il caos nel sommario sembra essere empirico. Senti, parlo chiaro, scendi nel divario. Prendi il vocabolario, trova la parola apocalittico. Sto in pericolo, vive e vegeto, mai stato critico. Come un fegato nel cometirico 1408, beh tutto è fatidico. Debutto qua sotto in modo esplicito. Vedo Taipan, senza veleno, fidico. Entro nei saifa, gli alunietto come antidoto. Cavaliere oscuro dal mestiere duro. Entro come Joker dicendo and here we go. Un avviso sul muro di ogni politico. Mayday, vendetta evasione come nell'86 Visitors. Quella viga puoi volgila al più presto, mettila in un cerchio con una linea e mezzo. Il fake è tipico, a rappare frottole, findo doomsday, findo idolo. In the knowledge, la musica, la nostra via, la nostra anarchia. Un mezzo di terapia espresso come strategia. Il vostro cranio in emorragia, stili affilati simili a bisturi da chirurgia. Chakra ideale, paralisi di anestesia per ogni parola reale. Chipitria, in mente solito disturbo psicologico. Diventi claustrofobico, un altro giorno in psichiatria. Anni di terapia, analisi della sorte, esame post morte, segni di schizofrenia. Sinfonia nostalgica, sotto frenesia, urto alla gabbia toracica, causa tachicardia, agonia. In questo posto viscido elimino un altro fascicolo dalla cronologia. Qua non funziona la tua regola, il nostro fuoco ustiona pure la mano di scevola. La tua roba si autorevoca, in sto contesto ci resto dipendente come un depresso con l'Exodan. Lascio la terra tremola per gli ideali, come un endurage di militari attorno al corpo di una recluta.